7:31 minuti primi. Vengi o siori venghino. Pane, burro, rock and roll, aperto i battenti. Da almeno una mezz'oretta, 16ª puntata. Lunedì 24 di settembre, siamo in diretta. C'è l'Ariele, Spadino in regia e Roberto Fricantoni. Anche la mucca Camilla. E voi? 335-100-7777. Un saluto a Matt che mi chiede com'è andata il DJ set di venerdì contro Dome la Muerte. Mi ha chiesto se mi ha picchiato perché l'ho svegliato. No, no, no, è andata bene, grazie. Un saluto al buon Dome, ci si rivede questo venerdì. Un abbraccio a Lori da Imola. E qui abbiamo un gemellaggio che spesso e volentieri vi chiediamo a che gruppo d'ascolto appartenete. Scopriamo dei doppioni. Lori mi scrive: non so se fare gelati sia rock, ma farli per tutto l'inverno forse sì. Se è così ci vado con più voglia al lavoro. Lori, sì, fare gelati d'inverno è terribilmente rock. Ti gemellerei con il gruppo d'ascolto di Gian da Genova, che invece li vende i gelati. Quindi questo gemellaggio Genova-Imola grazie a Pane, Burro e Rock and Roll. Tenete duro, ragazzi. Un ultimo saluto a Milano. Davide fa l'operatore ecologico e si lamenta della ricezione a Milano. Davide, resisti, tieni duro ed evviva il gruppo d'ascolto degli operatori ecologici. Vediamo se riusciamo a tirarvi su con qualcosa di oscuretto. Questa è roba da lampione crepuscolare ancora acceso, mentre qui è spento ufficiale. Ed è lì che la giornata diventa dura, quando il lampione crepuscolare ci abbandona. Ed è ufficiale, è iniziata una nuova settimana. No, non è più la notte, è il giorno. Ma per i Sister of Mercy è sempre notte. Hai capito? La dedichiamo a tutte le Alici, questa canzone. Non i pesci, si chiama Alice la canzone, Alice. Lasciate che i vostri incubi prendano il sopravvento. Thanks to kindness. sia ben chiaro, amici ed amiche là fuori, il DJ Ariele, Roberto Fricantoni e Spadino per Pane, Burro e Rock and Roll non fanno in realtà nulla. Stiamo qui e diamo voce dai nostri polmoni. C'è una redazione che veramente lavora giorno e notte, notte e giorno, a scovare notizie per gettare carne sul fuoco di questa trasmissione, sì, radiofonica. Carne su questo barbecue. Esatto, questo barbecue radiofonico. E quest'oggi ci segnala, nella data odierna, 24 settembre, la nascita di un personaggio al quale vorremmo comunque fare un saluto. Un personaggio ormai scomparso, nasceva nel 1876. Si chiamava Giuseppe Musolino. E sa cosa faceva? Cosa faceva Giuseppe Musolino? Il brigante. Ah, mestiere a sua volta onorevole. Mi permetta la rima, un mestiere interessante, quello del brigante, il vero, brigantismo. Vero, vero, vero, il brigantaggio, brigantismo, comunque l'essere brigante è sempre stato caratteristica precipua, se mi passa l'aggettivo, poi, del Sud Italia. Assolutamente. Sì. Nel senso che in Sud Italia i briganti sono diventati veri e propri eroi, da antieroi ad eroi a tutto campo, perché rappresentavano in qualche modo la riscossa popolare. Come si può non salutare un personaggio che come soprannome era un re di La Spromunti? Spero di averlo detto bene. Stato eccezionale. Mi vuole aiutare anche lei nella dizione? Sì, è stato... Perché ci sono due R. Urre. Urre di La Spromunti. Un personaggio veramente leggendario, taglialegna di mestiere, venne coinvolto, senta qui, la prima volta, in una lite fra due compaesani per una partita di nocciole. E allora le nocciole andavano forte, tiravano di brutto. Ovviamente il personaggio ne combina poi di cotte e di crude fino a quando viene incarcerato a Gerace. E senta qui, la leggenda racconta che durante la galera Musolino abbia sognato San Giuseppe che gli indicò il punto in cui avrebbe dovuto scavare nella cella e con facilità scappare insieme ai suoi compagni di carcere. Cosa che avvenne? Incredibile, fantastico. Senta, dopo consultiamo il libro della smorfia e vediamo, sì, di dare altri numeri. Assolutamente. Il brigante, San Giuseppe, esatto, la fuga, la fuga, i compari di fuga. Quattro numeri. Per andare avanti con le leggende legate a un re di La Spromunti che vogliamo ricordare quest'oggi, ce n'è un'altra. È riuscito ad evadere, l'abbiamo detto, a un certo punto passeggiando nella campagna in località di Farneto, nelle vicinanze di Acqualagna, intravede due carabinieri e, pensando che questi carabinieri fossero le sue calcagna, scappa. La leggenda racconta che inciampò però su un filo di ferro e disse una frase che divenne famosa: chi duchi in un pottan esercitu, pottanu filu. Potta non è, come penseranno i toscani, quella roba lì, ma la traduzione sarebbe: quello in cui ha fallito un esercito è riuscito un filo. Grande saluto a Giuseppe Musolino, un re di La Spromunti. Un re di La Spromunti, ma chiediamoci, cosa? E con questo concluderei, DJ Ariele, dica, perché, sì, continuare a fare radio, sì, quando si potrebbe briganteggiare in giro? Me lo appunto sul foglietto. Dai, 24 brigantiamo. Settembre, perché non briganteggiare? Dai, meglio briganti o meglio radiofonici? Sicuramente i radioascoltatori diranno meglio briganti. One morning I woke up and I knew we'll be right back. ero preso in un assolo anch'io. Stavo gemmando con Crosby, Still, Nash and Young. Ci aggiungo pure Young per questa Carry On, altrimenti poi qualche mio collega mi sgrida. Oh, senti che base meravigliosa. Attacco di batteria, attenzione, il più bello del mondo. Vai, dolce, entra. Vai, vai. Dicevo, altrimenti qualche mio collega mi sgrida. E ovviamente chi collega di Rock FM può sgridarmi se non Mox? Io le so tutte e se tu non le sai ti taglio le dita, Crista d'Oro. Ogni giorno in diretta da mezzogiorno alle 2. Ne approfitto quest'oggi per salutarlo. In realtà devo confessarvi che sono stato invitato nella sua trasmissione e devo ricambiare il piacere, visto che lui spesso e volentieri ci aiuta nella ricerca musicale di pane, burro e rock and roll. Oggi che è il 24 di settembre, secondo i calcoli di Mox Cristadoro, che sono sicuramente precisi, io non sarei mai stato in grado di ricordarmelo, è l'anniversario di Easy Rider, la trasmissione, titolo che sta ancora utilizzando nel pranzo di Rock FM, ma che originariamente era un programma serale al quale partecipavo anch'io. Sì, ve lo devo confessare, credo sia stata in gran parte colpa mia se Mox Cristadoro parla dai microfoni di Rock FM. So che in molti mi taglieranno le ruote per questa cosa, ma io vado ancora abbastanza fiero del collega Mox Cristadoro, col quale appunto quest'oggi condurrò, insomma, sarò ospite. È la prima volta che sarò ospite di Easy Rider. Vivo la cosa anche con un filo di emozione. A proposito di fili di emozioni, spero che l'amico genovese non sia già entrato in classe, perché è a lui che volevo andare a dedicare i Metallica. A questo punto li dedico a tutti gli studenti all'ascolto in questo istante. 7:46 minuti primi. Una ballad dolcissima dei Metallica, Nothing Else Matters. A proposito studenti, prima o poi lo facciamo qualche intervento telefonico tipo dal bagno? A me interesserebbe parecchio che vi nascondete col cellulare in bagno. No, tipo che se avete un compito ci telefonate e vi diamo noi le risposte. Tanto Freccantoni le sa tutte. Frick sa sempre tutto. Va bene, ci organizzeremo. 335-100-7777. Ci trovate qui. Come chi? Pane, burro, rock and roll su Rock FM dalle 7 alle 9. Un must. L'unico programma con la trombetta. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Open myself this way. Life is ours, we live in our way. Hold these words I don't just say. And nothing else matters. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Thank you. trust I see, and I find in you. Every day for us something new, open mind for a different view, and nothing else matters. Never care. Nothing else matters, Metallica. Hai sentito che voce? 7:52 minuti primi, Rock FM. Chiedo scusa se ogni tanto succede che intervenga nei brani, ma io non c'entro niente. Io sono qui che me le canto, mi faccio gli assoli finti, è colpa di Spadino che poi accende il microfono, io proprio non ci sto. Nothing else matter, volessimo tradurla un po' così, alla maniera di pane, burro e rock and roll. Che ci frega, ma che ci importa? Potrebbe, no? Se lo stardino, nothing else matter, ma che ci frega, ma che ci importa? Formanesca come cosa. Vabbè, era un modo per risentire un vecchio tormentone della nostra trasmissione. Belli, Gaia risponde. Cutra, cutra, cutra. Un po' di saluti, dai. Allora, via SMS sempre. Andiamo dal Lattista Ruggero. Siete come una macchina del tempo, fate viaggiare a ritroso. Grazie per i Metallica, sforno paste a go go. Lorenzo da Imola. I saluti, i rimastoni di Imola. Già fatto. È tanto che non la sentivo, buongiorno a tutti, Graziano sempre presente, coda in circonvallazione anche quest'oggi. Ma sì, dai, che se c'è pane, burro e rock and roll anche la coda in circonvalla, ma ce la si passa meglio, eh? Gian 75 da Genova, anche lui contento con i Metallica, dice le scale vanno meglio, ma certo che ci ricordiamo di te, caro. Outstanding Andrea dai dintorni di Monza con la nebbiolina, lui ci ringraziava effettivamente già un po' di tempo fa. Gianfranco che ci contatta al 335 100 7777, un abbraccio caloroso anche a te. Si avvicinano le 8 in punto, momento nel quale anche quest'oggi vi sveglieremo da oggi fino a venerdì con un nuovo brano. Andiamo a riposare il musical Air. Cosa posso darvi come anteprima? Che useremo un musical anche per questa settimana. Ah, una figata. Si fa il balletto anche questa settimana. Intanto gustiamoci questo sparo nel buio, sparato dallo zio Ozzy Osbourne. E a tra pochissimo, 8 precise, la seconda sveglia di pane, burro e rock and roll con... Ah beh, lo scoprirete tra poco, restate lì. We'll be right back.